Siamo in collegamento telefonico con Rosanna dell'Assemblea delle Donne del Consultorio di Piazza dei Condottieri perché ci racconta un po' di questa assemblea che ci sarà oggi pomeriggio al consultorio di Via Spencer per andare a parlare di questa nuova proposta di legge della Regione Lazio per smantellare i consultori e aggregarli alle ASL. Raccontaci un po' cosa sta succedendo. Allora, ciao a tutti e a tutti naturalmente. Non la questione del consultorio di Via Spencer è che c'è stato un avviso di spostamento del consultorio che è arrivato circa 15 giorni fa, ormai forse quasi 20, e subito dopo abbiamo visto anche quello che sta succedendo alla regione, quindi tutti gli attacchi collaterali ai consultori per il tentativo naturalmente è quelli di smantellarli, quindi la scusa è una volta quello dello spostamento, a volte sono altre, però naturalmente noi constatiamo ogni giorno che gli attacchi sono laterali, a volte diretti, a volte laterali per smantellarli. L'assemblea che ci sarà oggi pomeriggio è in continuità con un'altra assemblea che è già avvenuta, l'assemblea pubblica davanti al consultorio, oggi di Via Spencer, che inizierà dalle 17 fino alle 19, dove ci sono state coinvolte le realtà, le locali, ma soprattutto anche le utenti e noi dell'assemblea che siamo dentro al consultorio. Scusate, non solo di Via Spencer, ma anche di Piazza dei Condottieri, di Via Casilina, dove è stata fatta l'altra assemblea pubblica. Le assemblee sono in vista di questi spostamenti anomali, non chiari e ecco, saputi anche sotto banco, ma diciamo fondamentalmente non ci sono validi motivi per spostare questi consultori in particolare, ma naturalmente anche gli altri con tutte le problematiche che ci sono. Quindi l'assemblea pubblica, in particolare questa oggi di Via Spencer, è questa per proteggere e fare in modo che il consultorio da lì non venga spostato, perché sembra non ci sia alcuna necessità né di locali né, parlando anche con le operatrici, necessità di altro genere, anche laddove si trova in un locale, laddove non viene pagato un affitto da parte dell'ASLA. E quindi non ci sono reali motivazioni, oppure quantomeno le motivazioni sono sempre quelle politiche, e quello dell'attacco ai consultori, ma secondo noi è l'attacco all'autodeterminazione della donna fondamentalmente, perché sembrano sempre che mirino a quello tutti gli attacchi che si fanno ai consultori. Oggi quelli di Via Spencer, quelli di Casilina, ma tutti l'abbiamo visto anche nei giorni scorsi con le proposte che sono emerse alla Regione Lazio. Quindi io invito naturalmente tutte le compagne e tutti che possono partecipare. Oggi, ripeto, l'appuntamento è in Via Spencer 282 dalle 17 alle 19, dove lì ci possiamo confrontare naturalmente su questo tema di consultori e su che cosa si può fare e come mantenere i consultori che ancora restano in vita e per farli naturalmente con l'obiettivo di farli vivere meglio e non continuare ad avere attacchi per lo smantellamento, perché la scusa è lo spostamento, ma la nostra paura è forse è anche molto reale, quella che questi consultori invece l'obiettivo finale è quello di farli sparire i consultori. Quindi questo fondamentalmente sta l'iniziativa di oggi all'interno di questo quadro più ampio, anche se specifico rispetto al consultorio di Via Spencer oggi. Quindi non so se sono stata chiara. Chiarissima, dove si potrà anche firmare proprio Sì. contro lo smantellamento dei consultori, che ci sembra insomma anche un'iniziativa molto importante.